Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Siamo all'ultima puntata dell'anno, ci avete mandato un sacco di domande, forse pensavate che non avremmo avuto la capacità di rispondere, invece rispondiamo a tutto, ma non guardatemi così, ce l'abbiamo la risposta? Puntata speciale, no? Sì! Le abbiamo. Rispondiamo ci sono tutto. Tutte. Ci sono tutte. Titoli e poi incominciamo. Puntata speciale, domande impossibili. Rispondiamo a bimbi, a VIP e a tutti quei quesiti che ci erano rimasti nel cassetto. Mebius vi dà le risposte, perché è importante sapere se i pesci bevono e gli animali balbettano, o se nel grande circo Ben-Hur poteva andare a 200 km orari. E le trote? Perché fanno così tante uova? A proposito di uova, risponderemo anche e definitivamente all'antico interrogativo: è nato prima l'uovo o la gallina? Cominciamo? Dai. Risponderemo a tutto e a tutti, a bambini, a VIP, a domande che c'erano rimaste nel cassetto, l'abbiamo detto nei titoli, sì. Ma partiamo perché ne abbiamo tantissime e dobbiamo spicciarci. Partiamo con gli animali. Allora, partiamo con gli animali. Partiamo direi da una domanda che ci arriva da una bimba che si chiama Giulia. Buonasera, ma i pesci bevono l'acqua? Allora, i pesci bevono l'acqua. Giulia è piccolina. Con tutta quella che hanno. Ma anche se hanno sete. Hanno sete? Direi che dovremmo chiederlo al nostro esperto, zoologo divulgatore, nostro collega. Papic Genovesi dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. Buonasera. Buonasera amici. Eccoci. Allora, adesso dobbiamo andare un po' spediti perché ne abbiamo tantissime di domande che ci sono arrivate dai bambini e soprattutto sugli animali. Quindi partiamo con Giulia. I pesci bevono l'acqua? Alcuni pesci bevono l'acqua e molti no. Diciamo, normalmente, dato che stanno in acqua, insomma, uno potrebbe pensare che non hanno bisogno di bere tanto. Però in realtà tutto è regolato dalla pressione osmotica, per cui i pesci che stanno in acqua dolce non hanno bisogno di bere, anzi, insomma, l'acqua tende ad entrare nel loro organismo dove c'è una concentrazione salina maggiore dell'ambiente che li circonda. Invece i pesci di mare, dato che tendono a perdere acqua perché sono circondati da un ambiente con forte concentrazione salina, devono bere, bevono più o meno come noi, inghiottendo l'acqua, e poi espellono il sale di troppo attraverso delle ghiandole che hanno vicino alle branchie. Quindi i pesci di mare bevono. Ma a loro non fa male. A loro non fa male perché hanno quelle ghiandole là. Se beviamo noi l'acqua salata, invece ci fa malino, perché in realtà tende a sottrarci acqua e quindi, insomma, ci mette, sapete bene, storie terribili dei naufraghi sulle zampe. Quindi la domanda non era banale. Ma a proposito di pesci di acqua dolce, ne approfittiamo subito per rispondere anche alla domanda di Gianluca, che ci chiede, ci è arrivata via mail e la leggo io: in una covata di trote, quante trote sopravvivono? Cioè, quante diventano adulte? E questo è una cosa che riguarda le trote, ovviamente, ma tutti i pesci hanno queste covate di uova dai 400 fino ai migliaia di esemplari? Questa è anche una domanda difficile, molto complicata, perché dunque, innanzitutto, insomma, tutti i pesci tendono ad adottare una strategia per cui fanno tante uova e le curano poco, no? A differenza invece di altri animali come noi, che invece facciamo pochi piccoli e ce li curiamo con molta attenzione. Le trote sono in realtà una via di mezzo, nel senso che loro fanno un numero di uova alto, ma non enorme, ne fanno a volte qualche centinaia, arrivano alle 3, 4, 5 mila e gli danno un po' di cura, per cui fanno un nido, fanno una buchetta nel terreno in cui le mettono, le coprono con la ghiaia, curano la zona cercando in alcuni casi di ridurre un po' la predazione. Per cui, nonostante però questi sforzi, gran parte delle uova e poi degli avannotti finiscono male, o vengono mangiati dai predatori o vengono portati via dall'acqua in zone dove poi non riescono a svilupparsi. Quante ne sopravvivono è difficile dirlo, ci sono zone in cui non riescono a riprodursi, cioè il successo riproduttivo è zero, perché spesso ci sono troppi predatori. Spesso quando l'uomo introduce altre specie di trota per la pesca, può facilmente determinare l'estinzione locale delle popolazioni di trota proprio per l'eccessivo carico di predazione. E complessivamente una popolazione di trote può raddoppiare nel giro di qualche anno, quindi delle migliaia di uova il 99% andrà perduto e solo poche arriveranno a svilupparsi, a dare poi degli individui adulti, quindi insomma parliamo di un tasso di sopravvivenza che è bassissimo. Molto basso, molto basso. Ed è proprio una strategia riproduttiva, cioè se ne fanno tanti perché si sa che poi tanto un esatto, bel po' diciamo che appunto è la strategia in cui si fanno, ci sono appunto pesci che fanno centinaia di migliaia di uova che lasciano al loro destino. Qualcuna sopravviverà, si spera per loro, e questo permetterà poi la sopravvivenza della popolazione. E la trota, dicevo, è già ha un po' di cura parentale, ci sono alcuni pesci che hanno delle cure parentali, alcuni che tengono le uova o addirittura i piccoli avannotti in una primissima fase dentro la bocca per proteggerli, però poi invece nella scala evolutiva abbiamo degli esempi in cui opposti, in cui come appunto quelli l'uomo stesso, ma tanti mammiferi, che hanno delle cure parentali estremamente sofisticate, per cui a volte la cura dei cuccioli può durare anche 10 anni, insomma, come negli elefanti, come... Però siccome ne fanno pochi, devono assicurare la sopravvivenza. Tutto questo è mirato ad assicurare la sopravvivenza. Allora, restiamo ancora con gli animali e sentiamo cosa ha da chiederci Rosa. Buonasera, perché lo scoiattolo ha la coda così lunga? Lo scoiattolo, fino a che velocità può raggiungere? Grazie. La velocità dello scoiattolo è veramente un interrogativo. Sono, sì. Come sempre succede anche con mio figlio, le domande dei bambini ci mettono spesso più in difficoltà. Sì, poi sono precisissime, cioè non è che la coda di un animale a caso, lo scoiattolo. E tra l'altro tu ti occupi di una ricerca proprio importante sullo scoiattolo, no? Sì, diciamo, io mi sono occupato di scoiattoli a lungo perché i nostri scoiattoli, io mi occupo di conservazione soprattutto, per cui i nostri scoiattoli sono abbastanza in pericolo e quindi siamo in tanti che cerchiamo di trovare forme per proteggerli. Ed è in qualche modo legato alla loro coda e alla loro velocità. Innanzitutto va detto che noi in tutta Europa abbiamo un'unica specie di scoiattolo, che è lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo comune, insomma. Sì, ne abbiamo parlato a Mebius un mesetto fa, ecco, più o infatti meno. So che avete parlato del problema anche di competizione che c'ha. Ma tutti i problemi di competizione nascono proprio dalla sua strategia di corsa e di agilità, perché è una specie che vive essenzialmente sugli alberi, quindi ha bisogno di mantenere saltando da un ramo all'altro, questo gli permette di difendersi dai predatori, quindi dalle martore, dai rapaci, perché riesce a sfuggire molto agevolmente. La coda gli serve anche molto per equilibrarsi in questi salti ed ha una buona velocità, i dati sono difficili da trovare, però insomma si muove anche a una velocità di 20 km all'ora, che per un animale così piccolo è estremamente elevata. Il costo di questa strategia di difesa dei predatori è che è molto vulnerabile, come avete già detto nella puntata precedente, alla competizione con il cugino americano che è stato introdotto dall'uomo negli anni 50, che invece ha una strategia diversa. Uno scoiattolo grigio americano vive molto sul terreno, può accumulare grassi, mentre lo scoiattolo rosso deve mantenersi agile per saltellare di ramo in ramo. E lo scoiattolo rosso, per mantenere quindi un peso costante, accumula delle piccole riserve di cibo che lo scoiattolo grigio gli ruba. È molto abile a trovare, gli ruba, e quindi dovunque arriva il grigio, come appunto è stato già detto sempre nella vostra trasmissione, si estingue lo scoiattolo rosso. Hanno code diverse. Anche ad altro, non è solo, è un ottimo strumento di bilanciamento, sì. Anche se si è visto che scoiattoli che hanno danni alla coda poi comunque si muovono bene. Sì. Però serve anche per la termoregolazione, perché la usa un po' come una pelliccia, oppure può aiutare anche a disperdere calore se la tiene lontano dal corpo. Sì. E la usa anche nelle interazioni sociali. Sì, ma senti papi, non abbiamo capito, ma lo scoiattolo americano ha una coda diversa, più vantaggiosa? No, guarda. Entrambi hanno una coda folta. Lo scoiattolo grigio americano la usa molto nelle... E per esempio nelle relazioni sociali, e comunque è un animale che sta anch'esso sugli alberi, ci sta molto meno. La domanda che arriva adesso ci arriva da un ascoltatore tra i primissimi ed è molto antica. Ci è arrivata anche da un ascoltatore vero, però questo ascoltatore antichissimo, Alberto? E questo ascoltatore antichissimo è tale Aristotele, di greco, IV secolo più o meno. C'era già Mebius, quindi evidentemente lui l'ascoltava, e si chiede, sentiamo un po'. Perché l'uomo è il solo animale che può diventare balbuziente? Quindi continuiamo con Papic, che ormai approfittiamo di lui, zoologo, divulgatore, e quindi diamo a te la parola, insomma, rispondi ad Aristotele. Questa è una domanda molto, molto difficile, a cui insomma tecnici della materia hanno cercato di rispondere a lungo, insomma, quindi non è solo una materia da zoologo, perché l'origine delle balbuzie rimane abbastanza poco chiara. Si sa che in alcuni casi ci può essere un'origine genetica, ma nella gran parte dei casi probabilmente non è così. Quello che è vero è che non si è mai trovata prova certa della balbuzia negli animali, quindi è una caratteristica dell'uomo, è un disordine della parola che negli animali non si è mai registrato. E questo probabilmente è legato anche alla complessità del linguaggio, perché la balbuzia nell'uomo può a volte è più grave in alcuni idiomi, insomma, proprio perché la lunghezza delle parole, la complessità delle frasi può aumentare la difficoltà di chi parla. E ovviamente questo nonostante la complessità del linguaggio di alcune specie animali, però ecco, insomma, il linguaggio nell'uomo ha una complessità molto superiore. E poi entrano in gioco fattori di ansia, di psicologici, che possono aggravare questo disordine, che negli animali sono ovviamente molto diversi. Per cui non solo non si è trovata mai negli animali, ma questo è anche un po' un limite per la ricerca di terapie per l'uomo, perché molto spesso le terapie per molte malattie vengono trovate studiate sugli animali. Però c'è un fenomeno particolare, cioè chi balbetta, esseri umani appunto, quando parla con animali invece non lo fa, è vero? È vero, questo è vero, insomma ci sono varie condizioni nelle quali i balbuzienti di solito non hanno problemi di parola, e una è proprio quella di quando parlano con gli animali, per cui è uno di quei settori in cui la cosiddetta pet therapy, proprio l'interazione con gli animali ha dato dei risultati molto positivi. Anche quando si canta si dice che vada via la balbuzia, certo. Quando si canta oppure quando si parla ad alta voce insieme ad altri, quindi ci sono oramai terapie molto, molto avanzate, però rimane un buco di conoscenza, perché l'origine rimane ancora oggetto di molte discussioni e non è stata pienamente... Forse anche legata alla nostra complessità cerebrale, neuronale, che appunto potrebbe qualche volta anche influenzare questo tipo di patologie del linguaggio, proprio dovute forse non solo a un difetto fisico, ecco. Certo, insomma, è anche da dire, insomma, che nell'evoluzione dell'uomo l'evoluzione del linguaggio è stata una componente probabilmente chiave, insomma, certo, perché ha permesso un salto di qualità in termini culturali, che è poi la nostra caratteristica che ci permette il successo che abbiamo, per cui lì si entra in una materia talmente complessa che ancora la scienza ne capisce solo una parte. Va bene, grazie Papic, buon grazie anno, buone feste, ci sentiamo l'anno prossimo. A presto, tanti auguri. Buon lavoro. Tanti auguri. Qualche tempo fa incontrammo il signor Vergassola Dario. Dario Vergassola, sì, quindi non più un bambino, non un famoso pensatore del IV secolo, ma il noto Dario Vergassola, che ci ha fatto questa domanda. Salve, intanto a quelli di Radio 24, a me, Bius, vorrei chiedere una cosa, se è possibile. Mi sono trovato, quando vado ogni tanto in una sauna circa sui 90 gradi, e mentre sono lì che sudacchio e cerco di uscirne vivo pensando che dimagrisco, che in realtà non è vero, la domanda è: perché se mi soffio sul palmo della mano mi brucio, sia che soffio piano sia che soffio forte? Cioè mi brucio come veramente se ci avessi il fuoco. Qui c'è da raccontare un fuori onda, perché Vergassola è un nostro noto ascoltatore e fan, dobbiamo dirlo. E quindi lui qua ci ha fatto un po' il verso, perché noi una delle prime domande alle quali abbiamo risposto era quella del perché se alito sulla mano sento caldo e se soffio sento freddo. Sì. Anche quella la trovate nel nostro archivio se andate sul nostro sito www.moebiusonline.eu. E lui qua ci ha fatto un po' il verso, ci ha preso un po' in giro, però è vero, nel senso che se soffi, cosa succede nella sauna? Lo chiediamo a Giovanni Filocamo, che è un fisico ma è anche un divulgatore, ricercatore del CNR. Buonasera Filocamo. Buonasera a tutti. Cosa succede quando si soffia in una sauna, per cui la temperatura attorno, insomma, non è proprio... Che non è 90 gradi, però no. Vergassola non so che saune frequenti, 90 gradi... Sei bollito. Ne frequenti una per due minuti. Esatto. 90 gradi sì, direi che è tanto, però sicuramente la temperatura sarà più alta di quella che la temperatura nostra, che è sui 37 gradi. Vabbè, insomma, certo. Diciamo. E di conseguenza, quando si soffia sulla mano, l'aria che arriva sulla mano è aria che c'è tutto intorno, aria che è più calda della mano, e di conseguenza sentiamo caldo, perché andiamo in contatto, e un contatto con una pressione leggermente più alta, perché stiamo soffiando, è un'aria che è più calda della nostra pelle e quindi è normale che sentiamo più caldo. Cioè noi col soffio spostiamo l'aria che sta sul nostro palmo. Spostando quell'aria facciamo posto all'aria che è più bollente, che è più calda. Sì. È per quello che quasi, appunto, come dice lui, quasi scotta. Sì, sì, esattamente. Questa aria che sta intorno alla nostra mano è uno strato proprio sottilissimo, quindi ci vuole poco per mandarlo via. E dello stesso motivo, ricordiamolo, per cui invece in condizioni di temperatura più mite, diciamo, invece si sente fresco perché l'aria attorno invece ha una temperatura più bassa, in quel caso, di quella della pelle. Esatto, se la cosa va al contrario, dove l'aria intorno è più fredda, che diciamo che è un po' quasi sempre la normalità, ecco. Quando andiamo a soffiare spostiamo quest'aria, questo piccolo strato che sta intorno alla mano, e gli arriva sulla mano l'aria che sta tutto quanto nell'ambiente, e di conseguenza sentiamo più freddo. C'è anche il caso in cui sentiamo ancora più caldo, anche facendo così, che quando si alita sulla mano, no? Cioè si tira fuori l'aria dalla bocca in un modo diverso. E in quel caso, ecco, viene fuori una cosa ancora più interessante, forse, perché il modo di alitare muove l'aria in maniera tale che proprio l'aria che è dentro di noi va a finire sulla mano in una maniera molto regolare. Questo perché succede? Perché alitando stiamo tirando fuori l'aria piano piano, e quest'aria forma un fluido molto diretto, diciamo, proprio come lo potrebbe disegnare anche un bambino, dalla bocca fino alla mano. Se invece soffiassimo più forte si creano tutte delle turbolenze, quelle che in fisica si chiamano dei gran casini in pratica, e che spostano tanto l'aria in modo tale che sulla mano poi non ci arriva quella che sta dentro di noi, ma arriva quella che sta anche intorno. C'è un particolare però che vorrei chiederti, Filocamo, cioè nella sauna il fatto che l'aria immediatamente vicino alla pelle della mano, insomma del corpo, sia più fredda, da che cosa dipende? Dal fatto che, non so, a me viene in mente di dire che siccome lì sudiamo c'è evaporazione e quindi è più fredda? Se andiamo nei dettagli potrebbero succedere tante cose, però proviamo a vedere la cosa anche in modo semplice. Se ci sono due oggetti, uno con una temperatura e uno con un'altra temperatura, bene, c'è quella che si chiama l'interfaccia, diciamo, no? E allora noi sappiamo che noi abbiamo la nostra temperatura, e nella sauna c'è una temperatura più alta, e quella che è l'interfaccia è una cosa molto piccola, che però conta in qualche modo, no? Che quindi la tira giù. Ecco, allora rimani qua con noi, Giovanni, perché continuiamo con la nostra carrellata di domande, e ora tocca a Federico con una domanda un po' storica. Ieri sera alla televisione ho visto Ben-Hur. Nel film c'è la corsa delle bighe. Ho chiesto al papà quanto possono correre veloci i cavalli. Lui dice che un cavallo può andare a 50 all'ora. Allora perché un carro con 4 cavalli non va a 200 all'ora? Federico, ma non eri tu? No, non ero io. No, non ero era io. Un piccolo Federico che però, insomma, aveva una domanda molto molto precisa. Si potrebbe anche dire 10 cavalli, 500 km orari. Sì. Non funziona proprio così forse nella fisica. Sentiamo, Filocamo. Sì, mi è piaciuta tanto la domanda, ma soprattutto la risposta che è stata data. Cioè 10 cavalli andiamo a 500 km all'ora. È fatta. Sì, il ragionamento è giusto. No, molto carino. Non è proprio così. Infatti, quello che succede è che se noi mettessimo tantissimi cavalli si dovrebbero raggiungere delle velocità tipo quelle di un aereo. Mm. Questo sappiamo tutti benissimo che non succede. Ma perché? Perché le somme le velocità non vanno sommate, ma sommata la potenza piuttosto che si sviluppa. Nel senso che se un cavallo deve tirare un certo numero di chili, spende un certo numero proprio di calorie, beh, mettendo due cavalli le calorie spese sono la metà, in questo caso sì, mettendo quattro cavalli le calorie sono un quarto e così via. Questo riguarda anche il fatto della potenza raggiunta, di quello che si può fare. Perché non si mette un cavallo solo in quei casi? Perché se poi un cavallo molla un pochettino di potenza, allora molla di potenza tutto il sistema. Se ne metti quattro invece sei più tranquillo. Ecco. Mentre invece tu prima dicevi che le velocità non si sommano, perché ho 4 cavalli, faranno meno fatica a trainare un carro di una tonnellata, però la loro velocità è quella lì e quindi resta uguale, perché ognuno non può dare di più dei cavalli. Sì, diciamo che allora la velocità massima del cavallo senza nessun peso addosso è quella, e se tu unisci tra di loro 4, 5, 6, 10 cavalli è sempre quella. È anche vero che se tu fai trasportare a un cavallo un affare pesantissimo, ecco, la sua velocità massima si abbassa. E mettendo 2 cavalli, allora in quel caso lì si rialza finché io aggiungo cavalli, ma comunque al massimo arriva, diciamo, alla velocità massima che può avere un cavallo. So che può sembrare strano, ma invece no. Per il fatto, certo, che quando uno va a comprare una macchina, chiede sempre quanti cavalli. Che però sono cavalli diversi. Praticamente più va veloce, quindi non so, forse potrebbe essere per questo che c'è stata questa piccola confusione. Potrebbe essere. Grazie mille Giovanni, vogliamo ricordare il tuo ultimo libro? Il mio ultimo libro si intitola Mai più paura della fisica. Ecco, infatti non a caso ti abbiamo chiamato. Il prossimo? Il prossimo, vi posso dare questo anticipo, è legato a uno dei libri che è già uscito con Kowalski Feltrinelli, che è stato il matematico curioso. Il prossimo sarà una sorta di seguito e il titolo è Che il matematico curioso ritorna a curiosare. Buonasera, chi è nato prima, la gallina o l'uovo? Grazie. Ecco, questo era Leonardo, il piccolo Leonardo. Sì, che... il piccolo Leonardo che però pone una grandissima domanda, un grandissimo quesito al quale si diede una risposta. Si diede una risposta, una delle prime puntate di Mebius nel 2007, pensa Federico, e senti la risposta che è tuttora valida, giustamente, che ci diede un veterinario, un docente dell'Università Statale di Milano, che si chiama Daniele Vigo. Vediamo. Diciamo, la genetica evoluzionista ci permette di definire che è nato prima l'uovo. Oh. Con sicurezza, in quanto, diciamo, la natura ha fatto i propri esperimenti e o per caso o per necessità o magari ha tentato di fare qualche prototipo nuovo, nel senso che ormai è assodato che i volatili derivano dai dinosauri. Eh sì, questo forse chi non lo sapesse è sorprendente, ma è dimostrato. Filogeneticamente è quello il percorso. Chiaramente l'unico punto in cui può essere capitato un mix di geni, sviluppo di nuovi individui, quindi l'embrione, è chiaramente nell'uovo. Che magari la natura abbia tentato di fare un prototipo che rispetto al dinosauro gli sia uscito male, la gallina, però la gallina si è adattata, si è sviluppata e ha mantenuto ed evolverà sempre con delle caratteristiche genetiche. Cioè lei dice c'è un momento in cui due non galline si sono... generano la prima gallina. Ecco. Però se la generano è l'uovo. È l'uovo, perché è l'unico punto dove ci può essere questa fusione di geni di non galline. È l'uovo. Però, scusi, allora a questo punto in interrogativo si risposta, dovrebbe essere cambiato, è nato prima l'uovo o il dinosauro? Prima l'uovo o il dinosauro? questo... Abbiamo cambiato l'interrogativo, cioè regrediamo, torniamo indietro, dovrebbe essere sempre l'uovo. Chiaramente ci siamo trovati di fronte sicuramente ad un evento, dinosauri che hanno generato uova e dinosauri che hanno generato neonati. Risolto il più grande interrogativo dell'umanità, ce n'è un altro adesso che è altrettanto vecchio. Altrettanto vecchio, ci arriva da un bambino questa volta ancora, si chiama Livio e ci chiede qualcosa riguardo alle mummie, sentiamolo. Buonasera, come facevano i faraoni morti a diventare mummie? Grazie. Domanda secondo molto semplice. Te lui... racconta con competenza distorta qualcosa che è molto diffusa, cioè l'idea che le mummie siano un passaggio diverso della vita. Forse moltissima gente non sa che c'era un lavoro, una preparazione su infatti tra l'altro un lavoro complesso. Assolutamente complesso e forse anche tecnologicamente avanzatissimo anche dal punto di vista medico. Per questo noi abbiamo bisogno di un paleontologo e

Sì, prima non si sapeva che cosa è successo con lui. Esiste un papiro che è conservato al Museo di Torino e lì è scritto che c'era una cospirazione contro il faraone che era cominciato dalla moglie, una concubina che vuole mettere il suo figlio sul posto di faraone. Sì. Quindi voleva ucciderlo? Ma che cosa, che non era scritto che cosa è successo con il faraone. Non è scritto se lui era ferito, se lui era morto. Non è scritto dentro. Allora questo era sempre un grande mistero dell'antico Egitto, che cosa è successo con lui, e noi adesso abbiamo scoperto. E questo episodio è noto come la congiura dell'Harem, che è rimasto un po' così non chiaro, per cui non si sapeva se Ramses veramente fosse stato ucciso o meno, e soprattutto non si sapeva se poi quelli che erano stati accusati in effetti erano stati beccati, insomma erano stati poi processati, giusto? Non è scritto che cosa è successo con lui, era solo scritto che questa congiura fallita e che i conspiratori sono stati puniti. Questo è scritto, ma anche non questo esattamente come, se hanno un po' uccisi anche loro. Questo non si capisce solo quando si legge questo papiro. E così lei ci conferma anche che, vede che noi stiamo parlando noi insieme di tutti questi particolari, ci conferma anche che, a differenza di quello che si tenta in un sacco di altre situazioni, il famoso Voyager per esempio, che ci racconta sempre del misterioso Egitto, invece sull'Egitto noi sappiamo un'infinità di robe, perché questi scrivevano tutto, no? Sì, sì, esattamente. Anche questo nostro studio è un bel esempio che con una studio così, per utilizzare queste tecniche, si può risolvere qualche mistero, qualche antichissimo. Domanda, si può rispondere in un altro modo. Sì. Se noi non abbiamo fatto questo TAC, non si sapeva mai che lui era ucciso. Certo. La cosa interessante è appunto che voi su questo corpo, su questa mummia, come se l'immagina Livio, hanno fatto un attacco, cioè una cosa che noi facciamo tutti i giorni per i nostri accertamenti ospedalieri. Esatto, è la stessa tecnica. Fortunatamente hanno lì un TAC che hanno regolato già qualche anno fa da National Geographic al Museo di Cairo. Questo era utilizzato per il primo momento per Tutankhamon e adesso abbiamo anche utilizzato per Ramses III e anche le altre mummie, e grazie a questa tecnica possiamo vedere dentro, perché da fuori non si vede niente, perché il collo è tutto, sono tutte le bendre sopra, non si può mettere via perché non possiamo cambiare. Sbendarlo, certo. Ma grazie a questa immagine abbiamo visto adesso tutto. Il taglio. Adesso dovete trovare il colpevole, però. Sì, sì, ma noi abbiamo trovato forse il figlio che era anche mummificato, che era trovato anche insieme con il faraone. Accidenti. Questo abbiamo identificato con un'analisi genetica, che sono veramente padre e figlio. In più questa altra mummia era mummificata in un modo molto strano, non hanno messo fuori gli organi, non hanno tolto il cervello e poi hanno coperto con un pelle di capra, che è una cosa impura. E c'è quindi sospetto. Che cosa significa? Che potrebbe... L'hanno trattato un po' male, vuol dire che si sapeva che era stato lui. Molto probabile che c'era lui, e hanno punito questa persona in questo modo, che anche per la vita eterna hanno messo una cosa impura, così forse non può entrare nella vita eterna. Nel regno dei cieli, ecco. Ah, ci siamo. Sì, tra l'altro qui c'è una storia nella storia, nel senso che forse avete visto che questo personaggio si sarebbe impiccato perché ha una strana cicatrice sul collo, quindi potrebbe essere stato autopunito, cioè veramente un telefilm. Un grande giallo. Sì, abbiamo trovato questa indicazione che potrebbe essere impiccato, è un po' difficile da dire dopo 3.000 anni, ma è molto probabile. Adesso speriamo anche che possiamo andare avanti con la nostra ricerca, perché purtroppo per il momento è un po' difficile grazie alla situazione politica adesso in Egitto. È vero, è vero. È già molto difficile. L'ideale sarebbe trovare la madre. Però adesso non è che possiamo avere tutto. Sì, purtroppo la madre non esiste, almeno non è conosciuto una mummia che potrebbe essere la madre. Questo era molto importante per essere più sicuro che questo sono padre e figlio, perché sappiamo che sono parenti, questo è sicuro, ma se non c'è la madre è un po' sempre, non è certo per cento che è veramente padre e figlio. Quando si è molto piccoli si piange tantissimo e quindi è ovvio che Alice si chieda... Ciao, buonasera. Perché le lacrime sono salate? Oh, per onor di cronaca bisogna dire che Alice ha 3 anni. Molto educata. Moltissimo educata, è stata aiutata dal papà Alessandro a mandarci la domanda. E avrà pianto un sacco e quindi si fa questa domanda. Esatto. Allora chiediamo che risponda il nostro esperto Andrea Isidori, che è endocrinologo all'Università La Sapienza di Roma. Buonasera Isidori. Buonasera. Allora intanto qual è la funzione delle lacrime e perché sono salate? Le lacrime sono un fluido biologico molto importante perché serve per proteggere l'occhio da tante cose, dagli agenti esterni, fisici, come può essere il vento, ma anche dai microbi o semplicemente dall'abrasione che le palpebre, aprendosi e chiudendosi, normalmente fanno. Ma anche proprio una funzione nutritiva, perché se voi avete presente l'occhio, la superficie esterna è costituita da delle celluline che come tali devono aver bisogno di un nutrimento dal punto di vista delle cose che normalmente le cellule utilizzano, quindi l'acqua, i sali minerali e così via. E quindi le lacrime hanno questa doppia funzione di protezione e di nutrizione rispetto a quelle cellule che rivestono la superficie dell'occhio, che sono estremamente delicate e che si chiamano congiuntiva o cornea. Però sono salate. E sono salate perché tutte le nostre cellule contengono al loro interno dei sali minerali. Il sale più importante in tutti i nostri fluidi biologici è il cloruro di sodio, cioè esattamente quello che noi mettiamo nella pasta. Esattamente, ecco. Quello. E i nostri fluidi hanno una percentuale di sodio che appunto è lo 0,9%, che è quello che definisce la soluzione fisiologica. La stessa quantità di soluti sono contenute, quindi di sali, sono contenuti nelle lacrime, perché se così non fosse ci sarebbe un problema di non equilibrio tra la superficie esterna delle celluline e il fluido esterno, per cui essenzialmente esiste una forza fisica che è la pressione osmotica, che fa sì che quando non c'è un equilibrio tra la quantità di soluti dentro e fuori una membrana, in questo caso è la membrana cellulare, c'è una migrazione dell'acqua da una parte all'altra che ha la funzione di riportare questo equilibrio. Quindi se non fosse, diciamo, la stessa pressione osmotica, a questo punto le nostre celluline si disidraterebbero o si iperidraterebbero. Questo è il motivo per cui le lacrime sono salate, come quasi tutti i nostri fluidi biologici. Ma invece le lacrime amare non esistono. Ecco, le lacrime amare no, non esistono. Neanche quelle di coccodrillo. Potremmo dire così che quando produciamo più lacrime, magari appunto perché è l'amarezza di determinate situazioni e eventi, aumenta la parte liquida delle lacrime, che è quella appunto più salata. Infatti le stavo per chiedere, perché quando ad esempio Alice fa i capricci o quando noi piangiamo perché ci succede qualcosa di tragico, di brutto, come si innesca quel meccanismo per cui produciamo più lacrime? Cioè è una cosa cerebrale? Sì, sono dei riflessi neurologici per cui appunto vengono attivate alcune vie nervose e la produzione, diciamo, secretiva. Cioè c'è una connessione fra il dolore e la produzione di lacrime, si è creata nel nostro corpo tra la sensazione di dolore, il dispiacere e questa macchinetta che produce lacrime. Esattamente, che può essere più o meno sensibile appunto in alcuni soggetti. Purtroppo ci sono delle malattie in cui invece le lacrime non vengono prodotte, sono grave. Malattie autoimmunitarie in cui queste ghiandoline, che tra l'altro noi da endocrinologi vediamo perché sono a volte associate anche a problemi della tiroide, in cui le ghiandoline non producono più queste secrezioni ed è un grande problema perché poi la cornea, la congiuntiva ne risentono. E tutte le nostre secrezioni quindi sono salate o comunque contengono sali minerali? Penso ad esempio al sudore. Sì, esattamente. Esatto. Il sudore è vero, ma anche per alcuni succhi gastrici, per esempio, che sono delle secrezioni che noi non vediamo, succhi digestivi, che però contengono altrettanto quantità di sale. E quando si altera questo meccanismo secretivo che regola la quantità di soluti, abbiamo alcune malattie. Per esempio, ci sono alcune malattie che si diagnosticano con il test del sudore, in cui per esempio cambia la quantità di sali che sono presenti nelle nostre secrezioni. La saliva no. La saliva lo è di meno, esatto. Nonostante il nome. Vabbè, lo scusi, guardi. Lo scusi, è così, non possiamo farne siamo a meno. Siamo nelle feste anche. Non riesce a trattenersi. A parte la redazione. Grazie, grazie mille. Sidori. Grazie, okay. Buonasera. Adesso io so che noi facciamo questa domanda e subito alcune signore, forse tutte in ascolto, no, tutte no, ma alcune signore cominceranno a sorridere perché il loro compagno sanno che... Eh sì, non è... Insomma... Ma scusate, dipende dal compagno, dipende dalle signore, sì, no? Però dipende dal compagno, però cominciano... Vabbè, veniamo al dunque. Veniamo alla domanda. La domanda, andiamo a cercare il pelo nell'uomo. Ecco, sei no. riuscito a dirlo. Però è giusto. Si è preparato da una settimana. È una settimana che si prepara per la sua sciocchezza. È sì, vero perché... però, è vero. Eh sì, perché Roberto ci chiede come mai i mammiferi in generale, i primati in particolare, sono coperti di peli e invece l'uomo no. E anche questa è una domanda fondamentale. Infatti noi scomodiamo uno degli evoluzionisti, vabbè, nostro evoluzionista di fiducia, ma uno dei più noti in Italia, che adesso lavora all'Università di Padova, Telmo Pievani. Buonasera. Buonasera, Pievani. Ciao, Telmo. Non le chiediamo com'è la sua relazione con i peli, ma invece cosa ci può dire? Posso dire che è una domanda apparentemente semplice, come dire, sembra quasi ingenua, e invece è una domanda difficilissima per gli evoluzionisti, perché esattamente ancora non lo sappiamo, ci mancano ancora probabilmente i dati genetici che contano. Quello che ne sappiamo è che quando è successo, all'incirca quando ci siamo separati dall'antenato comune con gli scimpanzé e con i gorilla, il punto della questione è che i nostri antenati, o minini come si chiamano adesso, sono stati in qualche modo costretti ad adattarsi a un ambiente che cambiava, che era quello dell'Africa orientale, diciamo a est della Rift Valley, ed era un ambiente che diventava sempre meno coperto, sempre meno ombreggiato, quindi praterie sempre più ampie, la foresta cominciava a ritirarsi. In questo contesto gli evoluzionisti pensano che abbia iniziato a svilupparsi il bipedismo, cioè il camminare soltanto sulle gambe, sugli arti inferiori. Naturalmente tutto è successo in modo graduale e peraltro anche con varie soluzioni, nel senso che poi ciascuna specie ha sperimentato a modo suo modalità di sopravvivenza in questo nuovo contesto più arido. E quello che noi sappiamo ormai con ragionevole sicurezza è che il pelo negli ominini è cominciato a perdersi proprio in contemporanea con questo processo. Abbiamo cominciato a camminare sulle gambe, abbiamo perso il pelo e si sono sviluppate le ghiandole sudoripare moderne, diciamo quelle che poi sono rimaste anche dopo. E la ragione si pensa sia termoregolativa, cioè per poter essere attivi, secondo uno studio che è uscito anche l'anno scorso, anche nelle ore centrali del giorno. Quindi immaginiamoci queste scimmie sempre più bipedi, costrette ad attraversare spazi aperti, assolati, caldissimi nelle zone equatoriali e tropicali. Diventando bipedi, la superficie esposta al sole si riduce di molto, e perdendo il pelo naturalmente ci sono molte più possibilità di raffreddarsi durante il giorno. Quindi si evitano i predatori notturni, pericolosissimi, ci si procura più cibo, e si pensa che questo abbia dato un certo vantaggio nella perdita del pelo. Cioè tutti gli individui che erano meno pelosi avevano più vantaggio e quindi sono rimasti loro i pelosi. Certo, è come camminare con una pelliccia di visone in mezzo al deserto, insomma, un po' caldino in effetti. Fai poco. Gli altri potevano cavarsela però soltanto nelle prime ore del giorno, certo, oppure nella sera, quindi si guadagnavano ore per procurarsi il cibo, per la riproduzione. Sappiamo che questo è il motore che poi dà un vantaggio a certi tratti. Però tra i mammiferi terrestri, diciamo, solo l'uomo è senza peli? Solo l'uomo è senza peli. Solo alcuni uomini, poi, scusate. Lo so, però questo lo so. Non possiamo trattare questo aspetto. Però non chiedetemi perché rimane invece soltanto sulla testa, nel pube, perché quello veramente andremo nelle speculazioni, perché in realtà non lo sappiamo. Poi non si sa. Tanto delle reminiscenze. Quindi in realtà perderlo anche sulla testa, infatti la calvizie non si ritiene abbia degli vantaggi o vantaggi evolutivi. E gli altri mammiferi, diciamo, più in plumi? Beh, è successo naturalmente per quelli acquatici, tant'è vero che è valsa per qualche tempo una teoria un po' fantasiosa che diceva che noi avevamo perso il pelo perché avevamo avuto una fase acquatica. In realtà questa ipotesi già non i cetacei. Certo, il delfino non è peloso. No. Cosa possiamo dire di più? Che qualcosa si sa, ma non tutto. Beh, che probabilmente la risposta un po' più sicura verrà quando troveremo la data delle mutazioni genetiche connesse a questi tratti. A quel punto forse capiremo un po' di più. Telmo, allora tanto ci risentiamo. Volentieri. Ci sentiremo per allora, insomma. Volentierissimo. Ciao, a presto, Telmo. Buone feste, Telmo. Buone feste. Lacrime che cadevano e peli. Dai peli che cadevano anche loro. Invece adesso passiamo. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Beh, dai, nel corso dell'evoluzione passiamo da qualcosa di più aulico. Cadono sempre, ma sono fiocchi, fiocchi di neve. Oh. Sentiamo. La mia domanda è questa. Ho letto da qualche parte che È certo che tutti i fiocchi di neve che cadono sulla Terra, in qualunque parte del mondo, e da sempre, da quando cadono, non ce n'è mai stato uno uguale all'altro. Io vorrei sapere, intanto, come si fa a sapere questa cosa e a darla per certa? Credo che tutto questo derivi da un calcolo di un qualche algoritmo, però vorrei sapere qual è questo calcolo che stabilisce che non ci sia un fiocco di neve uguale all'altro dai tempi immemorabili in cui la neve cade sul mondo. Questa era la certezza di Gian Maria Testa, l'avrete riconosciuto. E invece a rispondere abbiamo chiamato Claudio Smiraglia, buonasera. Buonasera a voi. Docente, glaciologo dell'Università Statale di Milano, che spesso sentiamo per i nostri problemi di neve, di freddo, di permafrost e così via. Allora, mica possiamo andare a guardare i fiocchi uno per uno. No, certamente no. C'è da dire che non è esatto che tutti i fiocchi siano uguali. Questo è, come dire, il dato comune delle persone, perché il tipo di fiocco più conosciuto è quello dendritico, stellare. E questa era un po' l'unica certezza che aveva Testa, ecco, esatto, che non fossero tutti uguali. In effetti i fiocchi di neve possono, che sono cristalli di acqua gelata ovviamente, possono avere molte, molte differenti facce, due aspetti. Ci sono dei fiocchi di neve, appunto, quelli più tradizionali, conosciuti, ma non è detto che siano i più diffusi, che sono dendritici, quindi sono a stella o a struttura esagonale, ma ci sono anche dei fiocchi di tipo cilindrico, dei fiocchi di tipo allungato, cilindri stretti. Addirittura ci sono dei fiocchi che hanno una forma gemello di polsino, ecco, molto diversificata. Attaccati! Ecco, esatto. In ogni caso, l'inizio di ogni fiocco è abbastanza simile. Si tratta della struttura che assume l'acqua quando gela. Ovviamente sappiamo tutti che l'acqua è fatta da una molecola in cui abbiamo due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. H2O. H2O, una forma triangolare. Allora, quando comincia a gelare la nostra acqua, i due atomi di idrogeno si legano con gli altri due atomi di idrogeno di altre molecole di acqua e quindi comincia questa forma triangolare che si moltiplica e forma una specie di piastrina esagonale. Questo è il fiocco di base che normalmente non si vede. Poi qui, su questa base unitaria, in dipendenza delle condizioni diverse di temperatura, di umidità, che variano da un millimetro di aria all'altro praticamente, si innestano i vari processi di coalescenza, cioè le altre molecole cominciano ad aggrapparsi, ad attaccarsi a queste, che in qualche caso possono svilupparsi verticalmente e dare origine quindi a quelle strutture cilindriche di cui parlavo prima. In altri casi, quelli più conosciuti, più pittoreschi, più fotografati, danno origine a questa struttura stellare, dendritica. Quanto all'altra domanda, che è certamente importante, ma come facciamo a esserne sicuri che siano tutti così, oppure in quelle categorie che adesso ho elencato? È la stessa cosa, potremmo chiederci come facciamo a essere sicuri che tutti gli uomini e le donne abbiano una testa, due gambe e due braccia, anche se non le abbiamo misurate e viste tutte. Ok, quindi le ipotizziamo. Noi ipotizziamo che, se anche non conosciamo tutte le persone del mondo, tutte abbiano una testa, due braccia e due gambe. Ma mantenendo questa similitudine, quindi è corretto, noi abbiamo tutti una testa, due braccia e due gambe, però siamo tutti diversi. È così anche per i fiocchi di neve? Sì, come dicevo prima, ci sono diverse tipologie, quindi noi possiamo ipotizzare che i fiocchi di neve, quando cadono, quando si formano meglio, o hanno la struttura dendritica classica o altre forme, che poi si possono osservare direttamente o con una lente di ingrandimento, oppure si raccolgono i campioni, si portano in laboratori freddi e si possono poi studiare meglio e misurare. Però c'è il fiocco di neve con gli occhi azzurri, il fiocco di neve con i capelli neri. Esatto. Possono essere molto diversi. Grazie professor Miraglia e buone feste. Era l'ultima puntata dell'anno e ormai quindi manca poco, e allora auguri a tutti da Chiara Albicocco. E tanti auguri da Alberto Agliotti. E tanti auguri anche da Federico Pedrocchi. Buon anno! Buon anno a tutti!